in primo piano. Cominciamo con la notizia che serve anche un po' a tenerci su, ed è la notizia che probabilmente avrebbero pubblicato tutti i giornali come testata, come apertura, se non ci fosse stata un'altra notizia che conferma la capacità del premier Silvio Berlusconi di rubare la scena anche alle notizie da prima pagina. Dunque, per tenerci su, apriamo con quella che è una buona notizia per i risparmiatori. E cominciamo proprio dal Sole 24 Ore. Borse alla riscossa, spinte dai bancari, Milano sale del 7%. Citigroup torna all'utile dopo il salvataggio. E questo è un tema che appare su tutte le prime pagine dei giornali, anche se viene scalzato, dicevamo prima, da un'altra notizia. E la prendiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Berlusconi, nuove regole per le Camere. Votino solo i capigruppo. Stop di Fini, la proposta cadrà nel vuoto. Il premier ai deputati PDL. Le procedure vanno snellite. La protesta del Partito Democratico, pulsioni autoritarie. Altro tema delle prime pagine dei giornali è il caso Caffarella, la vicenda dello stupro dei due rumeni arrestati e scagionati. Restano però in cella per altri reati. Il questore, sono sicuro, erano lì. Questo è il titolo principale di Repubblica. Altro tema forte, altro tema di cui si continua a parlare è quello della casa. Ma torniamo ancora su quello che abbiamo detto all'inizio, è il tema economico, con la lettura di un commento, e lo prendiamo proprio dal Sole 24 Ore, ed è firmato da Giacomo Vaciago. Il titolo è questo: la fiducia c'è e va sostenuta. Si comincia a dire che l'attuale è sostanzialmente una crisi di fiducia. Ma cosa vuol dire in economia la fiducia? E soprattutto, da questa crisi, come si fa a venirne fuori? Sarebbe sufficiente che i media trasmettessero più ottimismo, si chiede Giacomo Vaciago. In proposito, è consigliabile rileggere una ricerca di 3 anni fa, quindi in epoca non sospetta, cui aveva collaborato l'ISAE, il nostro istituto di analisi economica che lavora per il governo. La ricerca riguardava come i consumatori europei formano le loro aspettative sulla situazione economica e l'eventuale ruolo dei media nel condizionarne l'atteggiamento. Come prevedibile, risultava quanto gli esperti di psicologia cognitiva sanno bene, e cioè che i consumatori non sono così razionali come li descrive la teoria ideologica, che parte dal presupposto che i mercati siano perfetti e abbiano sempre ragione, ma non sono neppure stupidi, cui potresti raccontare qualunque favola li faccia dormire meglio la notte. Seguono in modo sistematico una serie di regole che decidono come e cosa apprendono e quando e come sbagliano. È possibile che il loro pessimismo sia condizionato dai media, che in tutto il mondo e da sempre tendono a esaltare le notizie negative più di quelle positive. Ma non è detto che il consumatore estenda tutto ciò alla propria situazione, alle proprie previsioni, alle previsioni sulla propria futura situazione. In altre parole, conclude Vaciago, e ripensando a cosa è successo in questi 2 anni, è ben possibile che ci siano ancora oggi in Italia tanti ottimisti sul proprio futuro, al cui miglioramento essi continuano a lavorare con impegno, e che nonostante resti negativa la fiducia sull'andamento dell'economia, come finora misurata ad esempio dalla borsa, al di là del violento rimbalzo di ieri o dal prevedibile livello dell'occupazione. Ma l'altro argomento forte delle prime pagine, avevamo detto, è la proposta fatta dal Premier, quella che la Stampa di Torino chiama la rivoluzione del Premier. I lavori sono troppo lenti, votino soltanto i capigruppo. E su questo c'è l'impazzimento, diciamo così, anche dei titolisti dei quotidiani. L'Unità, per esempio, apre la prima pagina con questo titolo: Camera di servizio. Il Manifesto, da sempre bravissimo a sintetizzare con i titoli gli eventi del giorno, fa questo titolo: Camera ardente. Liberazione per altri fini. Sintetizzando quella che è la polemica con il Presidente della Camera. Libero, di mezzo la casta. troppi soldi e tempo sprecati. Ma dentro questi giornali che hanno dato molto risalto proprio alla uscita del Premier, leggiamo ancora qualcosa e leggiamo per esempio il commento di Concita De Gregorio, direttore dell'Unità. Il titolo è Barzellette e governo. Il Presidente del Consiglio dice che loro sono simpatici e ottimisti, hanno il sole in tasca, spiegava decenni fa ai dipendenti della Standa. Oggi a deputati e senatori è uguale, e che noi invece siamo sfiduciati, pessimisti e anche un po' melagrami. Intende indicare coi pronomi maggioranza e opposizione. Siccome noi invece siamo di fantastico buon umore, vogliamo riproporvi qui le ultime quattro barzellette del Premier. Così cominciamo la giornata facendoci due risate tutti insieme. Barzellette battute. Il repertorio di ieri messo in scena per far ridere i parlamentari PDL che difatti nel video, si sente benissimo, ridevano a crepapelle. Prima battuta sull'ex fidanzata di Frattini, rivolto alla platea indicandolo. Quando lascia le sue fidanzate potrebbe distribuire qualche numero. Sottotesto implicito, le chiamiamo noi, le ricicliamo volentieri. Formidabile, no? Seconda battuta, un evergreen, l'età percepita, a chi gli porge un bicchiere d'acqua. Ho 35 anni, non ho bisogno di bere. Nuove risate. Terza storiella, ancora sulla vecchiaia, che deve essere un'ossessione. Ho inaugurato al Trivulzio un reparto intitolato a Mamma Rosa. Ho avvicinato una vecchietta raggrinzita in sedia a rotelle. Ho pensato, è la più vecchia. Le ho chiesto l'età e lei mi ha risposto, siamo coetanei. Qui, al siamo coetanei, ha fatto anche la vocina della vecchietta, risate convulse in sala, e infine l'ultima, la più divertente di tutte, tenendo una mano sulla spalla Frattini. I regolamenti parlamentari rallentano la nostra capacità di decidere, dice. Allora facciamo così, si riconosca il voto di un partito in quello del suo capogruppo. Poi, chi non è d'accordo può sempre votare contro o astenersi. Questa era Concita Di Gregorio, ma andiamo subito a un contraltare che dà una versione esattamente diversa ed è il commento di Gianluigi Paragone su Libero. Quando Berlusconi dice di voler parlare alla gente è come se mettesse la freccia per superare il palazzo e il teatrino della politica. Ieri il Premier ha incontrato i parlamentari del Popolo della Libertà, ma ha parlato alla gente. Così non ci ha messo molto ad azionare la freccia e a far invecchiare di colpo una certa classe politica. E cosa c'è di più popolare che colpire al cuore la casta? Nulla, infatti. Presenteremo una proposta di legge di iniziativa popolare per dimezzare il numero dei parlamentari. Parole che, dette da altri, valgono come la più balorda delle promesse da marinaio, al contrario pronunciate da chi una volta le mise nero su bianco in una riforma, diventano un impegno in cui credere. Ecco perché noi lo prendiamo assolutamente in parola e questo giornale sarà pronto a raccogliere le firme non appena partirà l'iniziativa. Anzi, visto che ci siamo, alleghiamo quelle già accumulate con l'intento di abolire le province. Non si sa mai. Quindi l'ultima uscita del Premier ha scatenato commenti, ha scatenato tante prese di posizione, ha aperto anche una polemica con il Presidente della Camera, abbiamo detto prima, Fini. La Stampa, per la penna di Michele Ainis, inizia il commento intitolato Fannulloni per decreto in questo modo. Se la fantasia costituisce la prima qualità degli uomini politici, il nostro Presidente del Consiglio ne ha da vendere. Il Parlamento va a rilento, è appesantito da troppe votazioni, le votazioni regalano talvolta brutte sorprese a chi ha il timone del governo. Bene, facciamo votare solo i capigruppo e non pensiamoci più. Molto sintetico nelle prime righe anche il commento di Edmondo Berselli sulla Repubblica. Il titolo è Il Parlamento di anime morte ed ecco proprio la sintesi estrema di Berselli. Eccola la democrazia berlusconica, cioè la democrazia supersonica. E queste diciamo sono i primi commenti, se ne parlerà sicuramente ancora molto e tanto, come si parla sui giornali molto e tanto della vicenda Caffarella. I romeni scagionati. Prendiamo il titolo di apertura del Messaggero. Il tribunale del riesame. Rax e Loios non sono i violentatori. Caffarella, Romeni scagionati. Arresti revocati, restano in carcere per calunnia e violenza di Primavalle. E l'anatomia di questa indagine, che deve ricominciare in pratica da zero, è fatta con un articolo firmato da Massimo Martinelli, L'errore di insistere, i mille perché. Ne leggiamo un brano. È accaduto quello che non sarebbe dovuto succedere, perché la logica, l'esperienza, la capacità di prevedere gli eventi che ci si aspetta da chi dirige e conduce inchieste delicatissime avrebbero imposto una conclusione diversa, vale a dire riconoscimento di assoluta estraneità dei due romeni per lo stupro della Caffarella, come è avvenuto, ma anche e soprattutto una presa d'atto matura e responsabile da parte degli inquirenti, che invece testardamente e pervicacemente hanno continuato a negare l'evidenza di una prova a discarico come quella del DNA assolutamente definitiva. E il tema è un tema sul quale tutti i giornali hanno mobilitato cronisti, cronisti giudiziari e commentatori, e soprattutto hanno spinto molti ad andare a rivedere le tecniche di investigazione e soprattutto quello che è l'esame del DNA. Abbiamo molto da leggere oggi, ci sono tanti argomenti sulle prime pagine dei quotidiani. E torniamo però su un tema di cui si è parlato nei giorni scorsi, su un tema che ha fatto molto discutere e che è stato al centro di tanti commenti e di tante prese di posizioni, e che anche ieri proprio su questa radio il direttore Ferruccio De Bortoli e anche Giuliano Ferrara hanno commentato. Partiamo da una serie di fotografie che pubblica il giornale con un titolo provocatorio. Il titolo provocatorio è questo: hanno costruito questi mostri e ora protestano per la cementificazione. È una polemica con alcuni architetti per quello che è stato fatto in molte periferie urbane del bel paese. E si parla delle vele di Scampia a Napoli, si parla del quartiere Zen a Palermo o dell'impressionante quartiere Corviale a Roma, ma anche del Grattosoglio a Milano, oppure delle lavatrici di Genova e del quartiere Pilastro a Bologna. E su questo argomento c'è un interessante commento sulla prima pagina della Stampa firmato dall'architetto Stefano Boeri. Serve realismo e non appelli, è il titolo, ed è una polemica neanche tanto indiretta, molto diretta, con quell'appello apparso sulla prima pagina di Repubblica di ieri firmato da Vittorio Gregotti, Gaia Aulenti e Massimiliano Fuxas. Non ho firmato l'appello di Aulenti, Gregotti e Fuxas, scrive Stefano Boeri, contro il disegno di legge sulla casa proposto dal governo Berlusconi. Non l'ho firmato perché non penso che si possa risolvere in 10 righe di buonsenso e indignazione una proposta che ha un'articolazione e anche una sua potenziale pericolosità tali da richiedere una risposta più circostanziata. La forza e i rischi di questa proposta di legge stanno in 3 idee. La prima è di proporre una mobilitazione delle risorse individuali di migliaia di famiglie e piccoli proprietari capace di arginare la crisi e di trasmettere una scossa al sistema delle imprese edili italiane. La seconda è di esautorare le burocrazie delle amministrazioni locali, responsabilizzando al loro posto un'intera categoria professionale, quella degli architetti e degli ingegneri. La terza è di legare questa mobilitazione individualista all'opportunità di rinnovare, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, uno stock edilizio ormai desueto e divoratore di energia. Bene, liquidare tutto questo come liberalizzazione del mercato e anarchia progettuale rischia di essere una semplificazione, innanzitutto perché si interpreta come rischio di una prossima deregulation quella che invece è da tempo una pratica consolidatissima ed estesa di trasformazione del territorio italiano. Andiamo anche al seguito più avanti, proprio perché il tema ci sembra molto interessante e se ne parlerà a lungo ancora nei prossimi giorni. Qualcosa che attorno a noi è già accaduto e spesso nel rispetto delle norme dei piani regolatori. Andiamo. Basta girare le periferie italiane attraversando quel pulviscolo di edifici solitari ammassati che ormai ovunque le circonda per capire che ciò che ha scosso questi territori li ha cambiati, rigenerati, a volte distrutti, più e oltre che i grandi interventi di speculazione promossi dai grandi costruttori, è stata una moltitudine di piccole trasformazioni che hanno assecondato i bisogni e i desideri di una società frammentata e prepotente. Migliaia di interventi per allargare un magazzino, sopralzare un appartamento, sigillare un balcone, ricavare un bagno, migliaia di trasformazioni che legalmente o abusivamente dalla Brianza al Casertano, dalla Riviera Romagnola alle Puglie hanno riscritto intere porzioni delle nostre città e quasi sempre al miglioramento delle condizioni di vita privata delle famiglie è corrisposto un sensibile peggioramento della qualità dello spazio pubblico esterno. Quindi più che pregiudizi serve discutere e serve una qualità degli interventi, qualità degli interventi che ci ricorda anche in un commento sul Riformista Marco Romano. E addirittura Marco Romano, che insegna estetica delle città ed è membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, ricorda che il piano case proposto da Berlusconi è una vecchia idea della rivoluzione francese e ci fu anche una svolta edilizia nella notte del 4 agosto 1789 e questa ricostruzione serve, diciamo così, a farci vedere con una chiave critica ma anche con una chiave storica quella che può essere la potenziale forza di una proposta che, se ben fatta, può dare anche impulso al settore dell'edilizia. Altre notizie interessanti e importanti sui quotidiani, però sulle prime pagine vedo che soltanto Avvenire ha dato spazio con un richiamo a questa notizia di cui si occuperanno più tardi i colleghi di GR24. Francia, giro di vite, vietati alcol e sigarette ai minori di 18 anni, a pagina 14. Spesso noi guardiamo all'estero, parliamo di estero, ma vediamo che all'estero alcune decisioni vengono prese e vengono prese in maniera diretta. Alcol e fumo, stop agli under 18, scrive Avvenire. Troppi giovani in coma etilico, innalzato il limite per la vendita nei locali, vino e liquori vietati nelle stazioni di servizio dalle 18 alle 8. Da noi questo argomento sarebbe un argomento che scatenerebbe tante discussioni, ma sicuramente è un argomento importantissimo perché anche l'Italia, anche il nostro paese vive questa terribile tragedia che viene chiamata spesso la febbre del sabato sera. E queste limitazioni sicuramente hanno finalità di tutela soprattutto per evitare questa strage di giovani. Andiamo ancora avanti a trovare notizie, questa volta abbastanza curiose. Ce n'è una che ho visto sul giornale, un fogliettone firmato da Michele Brambilla, il titolo: adesso si menano i nipoti del 68. E comincia in questo modo: non ci sono più alla statale di Milano i bei pestaggi di una volta, e così gli scontri di ieri fra gli studenti di destra e autonomi di sinistra si sono risolti con qualche calcio e qualche pugno. Niente più spranghe, niente più coltelli, niente più molotov, e noi aggiungiamo per fortuna. Ma che cosa è successo ieri? Andiamo a vederlo a pagina 13. A pagina 13 diciamo che tra i manifestanti di opposte fazioni c'erano due nipoti illustri, Clelia La Russa, nipote del ministro Ignazio La Russa, e Carlotta Cossutta, nipote dell'ex leader della sinistra, Cossutta, Armando Cossutta. E ancora oggi sulle notizie, sulle prime pagine, c'è l'addio della Juventus alla Coppa. La partita di ieri sera purtroppo ha avuto per la Juventus non un risultato brillante, anche se la partita è stata una partita bella, è stata una partita sofferta, e stasera, per questa sera, facciamo gli auguri alle altre due squadre italiane, a Inter e a Roma, e chiudiamo, diciamo così, con un sorriso, con Rompipallone di Gene Gnocchi, preso dalla Gazzetta dello Sport. In una nota di Palazzo Chigi, Berlusconi ha precisato che la legge sugli immobili non va estesa a Calazze, Emerson, Maldini e Ronaldinho. E noi diciamo, ma peccato forse. Comunque siamo agli sgoccioli, siamo al finale. Io vi do l'appuntamento per domani mattina alla stessa ora, alle 7:30, con In Prima Pagina. Buona giornata a tutti.